Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Simona, stai bene? Bene, grazie. Tu, Federico? Sì, possiamo incominciare? Assolutamente. Su e giù gli ascensori vanno ogni giorno milioni. C'è un paradosso in Italia, ve ne parliamo fra poco. E con la testa e con il cuore si va ovunque, ce lo racconterà Giusy Versace. E poi chiudiamo con un vaso dal cuore tecnologico. E allora via. Che invenzione, Federico, un'invenzione che ormai sottovalutiamo, oppure la diamo così tanto per scontato, salvo quando non funziona, eppure è un'invenzione veramente importante, permesso lo sviluppo in verticale delle nostre città, sì, ha cambiato quindi la geometria delle nostre città. E ha cambiato la vita di tutti, direi, perché stiamo parlando di miliardi di persone che possono andare su e giù con l'ascensore che compie 160 anni, perché il primo ascensore per il trasporto dei passeggeri è stato installato nel 1857 a New York. E senti anche quest'altra curiosità. Sembrerebbe che l'Italia sia il primo paese in Europa per numero di ascensori installati. Circa 1 milione. Però chiediamo la conferma del numero a Roberto Zappa, presidente di Asso Ascensori, che è qui con noi. Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Un milione è giusto? Circa 1 milione di impianti installati in Italia. Ce la giochiamo un po' con la Spagna. Siamo lì. Oh, noi non l'abbiamo chiamata qui, sarebbe stato simpatico anche per fare una storia dell'ascensore. Il problema è che dopo 160 anni in Italia noi abbiamo un problema serio. La nostra trasmissione si interessa di innovazione tecnologica, qui ne parleremo, ma si interessa anche di quegli aspetti dell'innovazione tecnologica che sono, come dire, di governance di questa innovazione, cioè di come farla, se si riesce a farla, se si fanno delle cose male. Qui mi pare che lei ci sta per raccontare un paradosso. Si parla tanto di smart city, smart building. Prima di parlare di smart elevator bisogna che questo sia reso accessibile. E qual è il problema adesso in Italia, o meglio da diversi anni ormai in Italia? Abbiamo un problema che è quello della possibilità per quanto riguarda i manutentori di poter accedere all'impianto e quindi fare una manutenzione efficace e effettiva. Purtroppo, nonostante diverse interpellanze anche verso il governo, siamo ancora ormai da 4 anni in attesa che vengano ricostituite le sessioni di esame presso le prefetture, in quanto sono state fermate nel 2012 causa, tra virgolette, della legge di stabilità. Ci spieghi bene, perché qui c'è della gente che sa guidare ma non ha la patente, non ha il documento. Il tema è che le società che poi fanno manutenzione degli impianti di ascensore formano personale. Questo personale poi deve essere qualificato, quindi deve ottenere una sorta di patentino. Questo patentino viene rilasciato a seguito di una sessione d'esame presso le prefetture. Le prefetture non sono in grado, proprio per effetto della legge di stabilità, di eseguire questi esami. Sono 4 anni che non possiamo portare i nostri ragazzi a fare esami. Di fatto è bloccato il rilascio di questi certificati di abilitazione all'esercizio della professione a persone che hanno fatto il percorso formativo e che quindi persone che sono abilitate per fare manutenzione, una manutenzione che è necessaria per questioni proprio di sicurezza degli impianti. Assolutamente sì, il problema è ancora più grave, se vogliamo, aggravato dal fatto che in questi 4 anni diverse persone abilitate alla manutenzione sono andate in pensione, quindi l'avvicendamento naturale porterebbe a dire un po' ne escono, un po' ne entrano, il problema è che non riusciamo a farli entrare. Ma senti, cioè, è un problema burocratico che potrebbe essere risolto in un pomeriggio, mi pare di capire. Insomma, direi che un problema burocratico potrebbe essere risolto in mezz'ora. Ecco, quindi Roberto Zappa, come associazione di categoria, che cosa chiedete per sbloccare questa situazione che appunto voi denunciate come essere paradossale? Chiediamo che il governo lo faccia. Con un decreto governativo potrebbe arrivare tutto. Con un decreto potrebbe arrivare tutto. Il tema è che noi abbiamo cercato anche di inserire questa tematica all'interno dell'ultimo decreto che è stato fatto per il ricepimento della direttiva 2014-33. Ne parliamo di inizio anno, a gennaio 2017. Parliamo inizio anno, la questione del patentino tra virgolette era ben chiara al governo, purtroppo il Consiglio di Stato ha eccepito che non c'erano le basi legali per poter inserire questo elemento all'interno di quel decreto, voglio dire. E allora lancio un messaggio chiaro e diretto dai microfoni di Mebius di Radio 24. Quello che dicevo prima, governo, fate quello che serve. Fate questa benedetta legge, inserite all'interno di un qualsiasi provvedimento. Qualcosa fate che... delle telefonate. Non ho... Ma tra l'altro c'è qualche migliaio di giovani che non riescono a lavorare. Ma parliamo di tra i 2.000 e i 2.500 giovani che sono pronti per poter essere immessi nel mercato, quindi poter essere... io dico tra virgolette ovviamente utilizzati come manutentori su impianti e non possono andare perché violerebbero la legge. Un aspetto, dicevamo, abbiamo sottolineato più volte, paradossale, anche perché di fatto l'Italia ha questo primato per quanto riguarda il numero di ascensori installati, però diciamo che il parco delle ascensori italiane è piuttosto vecchiotto, se non sbaglio circa il 40% ha più di 30 anni, quindi la manutenzione è effettivamente qualcosa di fondamentale. E non è necessario pensare a cambiare. Le nuove tecnologie consentono di fare degli interventi a basso costo, è vero? Allora, sì. Allora, questo è un altro livello di problema, in effetti. Il personale deve essere in grado di gestire la manutenzione di impianti nuovi, così come di impianti vecchi. Allora, questi impianti vecchi che portano a una serie di problemi per quello che dicevamo prima, quello dell'edificio accessibile. I vecchi impianti, al di là dei nuovi, non hanno sistemi di, ad esempio, banali di livellamento come un impianto nuovo. Basterebbe mettere un banale, io dico, inverter e quindi livellare gli impianti in maniera corretta. Quindi c'è il gradino. Esatto, c'è il gradino. Il gradino è chiaro che è un impedimento per chi purtroppo è portatore ma solamente basta essere anziani. Sì. Un anziano prende il gradino, cade e spacca il femore. Vuol dire, un costo quindi sociale innovare il parco ascensori è fattibile senza stravolgere totalmente, cioè senza cambiare per forza. Non è necessario cambiare l'impianto. Non è necessario sostituire interamente l'impianto, si possono sostituire in pezzettini di impianto. Io dico con qualche intervento anche abbastanza semplice o banale, qui non è un problema di fare la manutenzione, è di fare un adeguamento per modernizzare questi impianti. Quindi, senta, un'ultima curiosità. Parlava prima di ascensore smart, quali caratteristiche hanno le ascensori di ultima generazione? Sicuramente avere quello che viene definito ride comfort, come chiamano gli inglesi, quindi un movimento che sia gradevole, quindi senza scossoni che possono creare anche panico per l'utilizzatore dell'impianto. Un ascensore che... è piacevole utilizzare, quindi anche con finiture, caratteristiche, un ascensore connesso, quindi la sfida adesso è quella della connessione, quindi mettere in rete gli impianti e farli comunicare col resto dell'edificio. Questa è l'altra sfida che abbiamo di fronte. Va bene, Presidente, la ringraziamo, ci ha portato un paradossone italiano. Ci tenga aggiornati se la situazione si evolve. Assolutamente. Dobbiamo essere i primi ad annunciarlo. Speriamo che succeda qualcosa, perché devo dire che la speranza è l'ultima a morire. Ma... E allora Roberto Zappa, presidente di Asso Ascensori, buonasera e buon lavoro. Grazie a voi, grazie per l'opportunità. A presto. Velocissimi notizie dal traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Con la testa e con il cuore si va ovunque, Federico, l'abbiamo annunciato nei titoli. Giusy Versace, dopo essersi raccontata in questo libro autobiografico pubblicato da Mondadori, è approdata anche in teatro, perché dal 14 giugno ha portato la sua storia al Teatro Manzoni di Milano. Il ricavato va a favore dell'associazione Disabili No Limits, che affondato lei stessa nel 2011 dopo che in un incidente stradale nel 2005 ha perso entrambe le gambe. Una storia di coraggio, perché non si è arresa, anzi ha iniziato a correre con le protesi in carbonio, e Giusy Versace è diventata una campionessa azzurra, un'atleta paralimpica, una velocista. E un gruppo di giovani, giovanissimi colleghi del Master in Radiofonia e Multimedialità del Sole 24 Ore ha realizzato un servizio, un'intervista con Giusy Versace, un video che lo troverete sul blog di Mebius. Qui abbiamo una versione corta dell'intervista, un audio che è stata prodotta, questa e anche il video, da Enrica Sinesio, Grazia Piccinino, Massimiliano Carrà, Elisa Pancaldi e Alessandro Re, e il conduttore dell'intervista è appunto Alessandro Re. Il tema interessante è appunto questa presenza di strumenti che non sono quelli appunto del nostro corpo, ma che riescono ad integrarsi sia fisicamente che anche mentalmente, insomma, nella quotidianità di una persona, per esempio come Giusy Versace. E allora buon ascolto, e poi andate sul blog di Mebius, sul sito di Radio 24. Ciao Giusy. Eccoci, ciao. Le protesi hanno rivoluzionato la tua vita, ma dalle prime protesi che hai provato e usato, quanti e quali cambiamenti hai visto? La scienza, la tecnologia fanno progressi molto rapidi anche, quindi sicuramente l'evoluzione c'è ed è tanta, però poi ovviamente sono anche molto costose, quindi non tutti possono accedere ad ausili evoluti di questo tipo. Quanto costano queste attrezzature? Sono gli elementi che costano, no? Non è tanto la protesi in sé, una caviglia bionica, il ginocchio dinamico in carbonio, ci sono diversi tipi, però insomma, senza esagerare, si parte dai 1.500 fino ad arrivare anche a 4.000 euro in un piede uno. Quindi manca ancora un po' di tempo secondo te per attutire anche i costi? Per carità, se c'è ricerca, se c'è tecnologia dietro, il mercato detta quello. Bisognerebbe un po' che la classe politica aggiornasse il nomenclatore tariffario in modo tale che almeno una buona parte di questi ausili tecnologicamente avanzati possano essere concessi dallo Stato, e quindi tutti possono avere la possibilità di avere piedi dinamici in carbonio. Migliora la propria quotidianità, anche perché il piede in carbonio stesso attutisce i colpi che tu dai al terreno quando cammini, e quindi ti arriva meno sollecitazione alla schiena. Con un piede rigido passato dall'ASL, a lungo andare ne risenti anche con la schiena. C'è ancora tanto da fare. Al di là della tecnologia, quello su cui bisogna lavorare molto è l'abbattimento delle barriere mentali nella società, perché vergognarsi. Tu hai fatto anche di questo atteggiamento proprio la tua bandiera. Io mi ricordo benissimo le trasmissioni, le puntate della Domenica Sportiva, dove tu eri proprio quello, la questione della femminilità, queste protesi con i tacchi che tu sfoggiavi in modo davvero molto femminile. Che disinvoltura, esatto, diciamolo. elegante davvero. Com'è stata quell'esperienza? Sfoggiavo sto tacco perché ormai sono lanciatissima, ho un buon equilibrio, ho lavorato tanto per quello, e puoi anche dare una Ferrari al top, ma in mano del pilota sbagliato chiaramente non farà le stesse prestazioni che nelle mani del pilota adeguato. E poi devo dire che anche l'esperienza ballando mi ha dato anche molta più scioltezza anche nei movimenti. Ho fatto taroccare anche la mia caviglia, ti do questa dritta, perché il piede che io utilizzo, concepito con la possibilità di arrivare fino a un tacco 5, io l'ho modificato e adesso si alza fino a 9. Progressi. Ma e quando sforeremo la doppia cifra, quando si arriva a 10? Mi devo lavorare bene il mio tecnico. Qual è allora il percorso per capire se queste protesi sono giuste o meno per il proprio corpo? Le aziende grosse fanno test anche su amputati, loro lavorano su quello che sono le direttive che poi l'utente gli dà. Già rispetto a 10 anni fa le cose sono cambiate tantissimo. Giusy, dove credi tu che si spingerà la tecnologia delle protesi artificiali? Siamo già vicini alla manomia elettrica, ci sono degli esperimenti sulle mani bioniche. Ti ricordi quando facevano proprio la serie TV La donna bionica o L'uomo da 6 milioni di dollari? Cioè, secondo me siamo molto vicini, ci vogliono tanti fondi, tanta pazienza, voglia poi di sperimentare. Non basta avere una tecnologia addosso, devi lavorare un po' su tutto il corpo, soprattutto sulla testa, devi accettare il corpo estraneo principalmente, che è la cosa più difficile. Vi ricordate quando abbiamo ospitato Margherita Fronte per presentare il suo libro Cambiamo Aria, edito da Baldini e Castoldi, e in cui in quell'occasione ci ha dato consigli, tanti consigli per respirare un'aria migliore dentro e fuori in casa. Era un consiglio sulla, come dire, messa in opera di piante, no? Vasi pieni di verdura. Ci aveva suggerito di scegliere alcune piante in particolare, ecco. Per esempio il ficus, perché a quanto pare alcune piante più di altre hanno questa capacità di purificare l'aria. Ebbene, c'è una startup italiana che ha brevettato un vaso, si chiama Clery, ed è un vaso intelligente perché amplifica questa capacità di biofiltro delle piante. E tu hai intervistato Paolo Ganis, che ha costruito insieme al suo gruppo questo progetto, e naturalmente cosa si fa? Si incomincia dicendo come funziona. Ha un cuore tecnologico il vaso in ceramica Clery, un vaso smart, un vaso intelligente che contribuisce a purificare l'aria che respiriamo in casa oppure nei nostri uffici. Paolo Ganis, come funziona? Di che cosa si tratta? Si tratta di fitodepurazione, quindi la letteratura scientifica ha parlato e studiato in passato di queste proprietà che alcune piante hanno di purificare gli ambienti interni da sostanze dannose, quali tricotilene, benzene, ammoniaca, formaldeide, che sono i principali inquinanti presenti nelle nostre abitazioni, nei nostri uffici, in tutti gli spazi interni. Quindi, partendo da questa letteratura scientifica, siamo partiti da un vaso, un sistema a doppio vaso, quindi c'è un vaso esterno e un vaso interno, dove viene posizionata la pianta. Perché facciamo questo? Perché la fitodepurazione avviene nelle radici della pianta e non nelle foglie come si potrebbe pensare. Quindi, grazie a questo sistema a doppio vaso, con un'unità tecnologica dotata di ventole e sensori, riusciamo a forzare molta più aria nelle radici delle piante, dove ci sono microorganismi che proprio processano queste sostanze tossiche e diventano nutrimento per la pianta stessa. Grazie ai sensori posizionati nell'unità tecnologica, riusciamo inoltre a calcolare esattamente i livelli di inquinanti da dare in pasto, tra virgolette, alla pianta. Questo fa sì che riusciamo a fare un processo molto più efficiente, rendiamo una pianta esponenzialmente più efficace nell'abbattere tutti questi inquinanti. Poi la cosa molto interessante è che grazie a un modulo Wi-Fi presente nell'unità tecnologica si può collegare il prodotto a uno smartphone o a qualsiasi device smart e vedere in tempo reale i livelli di inquinanti che vi sono nella propria abitazione e anche i livelli di temperatura e umidità, perché c'è una stretta correlazione tra questi tre fattori, e quindi abbiamo una condizione ideale per vedere tutto quello che ci sta accadendo nell'ambiente circostante. Paolo Ganis, questo significa che monitorando questi dati è possibile anche decidere quando o no attivare il vaso per amplificare appunto le proprietà di biofiltro delle piante? Esattamente, quindi la pianta, grazie a questi sensori, capisce quanta aria far passare, quindi se ad esempio il prodotto si trova in condizioni ambientali buone, è chiaro che si spegne per una questione di efficientamento energetico, oppure si riattiva se rileva delle presenze massicce di inquinanti. Comunque sia, il prodotto è molto efficiente dal punto di vista energetico, consuma metà di una lampadina LED, quindi potrebbe essere sempre acceso senza nessun problema. Efficiente ed efficace, perché l'efficacia del vaso Clery l'avete testata, è stata testata dal laboratorio di neurobiologia delle piante dell'Università di Firenze. Che cosa hanno dimostrato questi test? Sì, dunque, fare questi test era praticamente fondamentale per noi, per capire l'efficacia del prodotto, per andare ad ingegnerizzare il prodotto, ma soprattutto anche dal punto di vista commerciale, per far capire ai potenziali clienti le proprietà e l'efficacia del prodotto. Quindi cosa hanno fatto? Abbiamo fatto dei test molto intensivi sul prodotto, abbiamo testato diverse piante, una ad esempio la Sansevieria trifasciata, e quindi queste piante nel sistema Clery sono state bombardate di inquinanti, formaldeide oppure dei bouquet di agenti inquinanti, e la pianta ha risposto in maniera molto efficace, andando ad abbattere circa l'85% degli inquinanti immediatamente, fino a un massimo di un 93% con un terriccio particolare con altri accorgimenti. Quindi, partendo e forti di questi test, abbiamo iniziato tutto l'iter commerciale del prodotto che ci ha portato a Las Vegas a essere stati selezionati da Plug and Play. È tutto quello che abbiamo ottenuto fino adesso. Ecco, infatti voi siete partiti da Pordenone e da Milano e poi siete approdati alla Silicon Valley. al CES di Las Vegas, quindi la fiera più importante di tecnologia. Siamo stati selezionati perché il prodotto è stato ritenuto molto innovativo per la fiera, quindi siamo andati nella sezione startup. La fiera è stato un successo, è piaciuto praticamente a tutti, giornalisti, investitori, distributori, fornitori, abbiamo avuto tantissimi contatti. Il contatto più importante è stato quello di Plug and Play Ventures, ovvero uno degli acceleratori più importanti della Silicon Valley, che vanta investimenti in Google, PayPal, Dropbox e molti altri. Loro ci hanno chiamato lì dopo la fiera, ci hanno detto che il prodotto gli piaceva tanto, il team era molto valido e quindi ci hanno accelerato per 3 mesi e abbiamo brevettato il prodotto, abbiamo fatto tutto quello che serviva proprio per lanciare dal punto di vista commerciale questo nuovo prodotto. Dalla startup italiana avete poi fondato una società americana, un passo necessario appunto per commercializzare il prodotto oltreoceano? Sì, esattamente, è stato un passo necessario sia per dare visibilità al progetto e andarci subito a configurare come first mover in questo campo, per dare anche visibilità mediatica, perché grazie al CS, al fatto che siamo stati selezionati da Plug and Play e la nostra campagna di crowdfunding, abbiamo avuto moltissima visibilità mediatica che è funzionata tantissimo sia con i potenziali clienti sia con altri investitori. Poi però siamo comunque ritornati in Italia perché negli Stati Uniti i costi operativi sono molto elevati, crediamo fortemente nel Made in Italy ed è stato un veicolo commerciale importante parlare che il prodotto fosse Made in Italy, quindi siamo tornati in Italia per imbastire tutta la produzione. Design e materiali infatti sono appunto Made in Italy, sono italiani. Sì. Per concludere Paolo Ganis, il vostro vaso è un esempio di Internet delle cose. Sì, esattamente, Internet delle cose perché grazie al modulino Wi-Fi presente sul prodotto possiamo connettere Clery sia alla rete domestica e quindi il vaso si connette in automatica al proprio router di casa e poi invia segnali al server. Questo permette al cliente sia di vedere in tempo reale in qualsiasi punto lui sia del mondo le condizioni ambientali che ha in casa, sia il prodotto si può collegare a tutti gli altri smart devices presenti in casa, tipo ad esempio i termostati intelligenti, le telecamere, i sistemi di domotica. Quindi è un prodotto 100% connesso con tutto l'ambiente tecnologico che gli è vicino. Il prodotto a questo punto è pronto per entrare nelle nostre case e nei nostri uffici. E allora Paolo Ganis, in bocca al lupo e buona serata. Grazie mille a voi. Buona serata. Quindi se mettiamo l'Amazzonia in un vaso, finito il problema deforestazione. Ce n'abbiamo un sacco in più. Federico, provare per credere. Buona settimana a tutti. E a tutte.